Eccoci qua, saluto tutti, buonasera, bentrovati e ben ritrovati per quelli che magari ci hanno seguito anche nelle nostre altre iniziative. Quello di questa sera è il primo di una serie di incontri che faremo a cadenza mensile, incontri che possiamo ben definire di formazione, con i quali affronteremo vari argomenti. In realtà siamo in ritardo di un anno, perché questo progetto avrebbe dovuto partire esattamente un anno fa, poi per i noti motivi legati alla pandemia è stato in un primo momento sospeso e poi cancellato quando ci siamo resi conto che non avremmo più potuto fare incontri in presenza. Tuttavia, visto che a quanto pare la soluzione dell'emergenza sanitaria ancora oggi è lontana, abbiamo pensato comunque di riprendere questo filone di incontri, ovviamente online, confortati anche dal successo delle precedenti iniziative che abbiamo organizzato con la stessa modalità. Vi anticipo che i prossimi incontri, salvo poi conferme, saranno il 15 di maggio. Carlo Greppi presenterà il libro L'antifascismo non serve più a niente. Poi nella prima settimana di maggio avremo Alberto Burgio sul razzismo e a giugno, mi sembra il 17, Andrea Cattania sulla storia del capitalismo. Questa sera il nostro gradito ospite è Davide Conti, che è uno storico e vicepresidente dell'ANPI provinciale di Roma, per cui giochiamo anche un po' in casa, che ci parlerà degli uomini di Mussolini e della mancata epurazione. C'è questo libro che appunto ho scritto da lui e si intitola Gli uomini di Mussolini. Modererà la serata Marco Sannella. Ringrazio tutti, vi auguro buon ascolto e do la parola a Marco Sannella per l'introduzione. Grazie. Buonasera a tutti. Ecco, l'introduzione sarà necessariamente breve. Abbiamo scelto questo tema e lo storico Davide Conti, che già conoscevo, diciamo, per gli interventi che fa su questo tema e in generale su tutte tematiche che riguardano la resistenza e il fascismo, oltre a segnalare anche l'ultimo libro sul periodo di Piazza Fontana, fondamentale a mio avviso, sul quale ritorneremo poi verso novembre-dicembre. Ecco, abbiamo scelto questa tematica perché è una tematica importante per la storia dell'eredità della resistenza e non è diciamo solo riduttivamente confinabile al problema della mancata epurazione, della mancata Norimberga, a quella che è stata chiamata anche da Budget Bozzo la rottura tra Stato e resistenza. Rottura tra Stato e resistenza che ha comportato un altro problema serio, quello del congelamento costituzionale. E all'interno del congelamento costituzionale, diciamo, la messa in mora e la messa tra parentesi di quel principio di emancipazione costituzionale legato all'attività delle masse lavoratrici, mi riferisco all'articolo 1, all'articolo 3 e all'articolo 4. Ecco, il movimento dei lavoratori in questo periodo, a dispetto della Costituzione, viene un po' considerato un nemico interno, no? E lo stesso partigianato verrà espulso dalla pubblica sicurezza, consustanzialmente alla continuità dello Stato e all'immissione di ex fascisti e criminali di guerra all'interno dell'apparato dello Stato. Tra queste cose a me ha sorpreso, anche non lo conoscevo, leggendo il libro di Davide, sono rimasto colpito che c'è stata in questo periodo anche la riattivazione del casellario politico, quindi del controllo di tutti quelli ritenuti sovversivi. E ricordiamo che una gestione dell'ordine pubblico largamente impronzata a criteri fortemente repressivi e a sfondo luttuoso. Ecco, per cominciare con la prima domanda, volevo dire, chiude anche il libro in un modo alla nostra sezione chiaro e all'attività che soprattutto in questo ultimo periodo ha caratterizzato la sezione, con un'esortazione quasi, che l'antifascismo non è solo un oggetto celebrativo, ma deve essere soprattutto un soggetto della storia, un soggetto è legato ad una memoria attiva. La prima domanda che voglio fare a Davide è questa. Mi sono soffermato all'inizio e mi ha colpito molto tutta la faccenda legata alla strage di Portella della Ginestra. Possiamo considerare questo evento, e ricordo che il primo maggio del 1947 ci fu un eccidio con 11 morti e numerosi feriti, se possiamo considerarla da un lato come un colpo di coda dello squadrismo, visto la serie di attentati avvenuti e la serie di uccisioni di militanti politici e attivisti sindacali, e anche come un preannuncio della futura strategia della tensione. Sì, intanto buonasera e grazie per l'invito, grazie alle sezioni dell'AMPI che hanno organizzato questo incontro, e grazie al collettivo ZAM con la radio che segue questo dibattito. E io, diciamo, partirei proprio dalle grandi questioni che Marco ha in qualche maniera sottolineato nel suo intervento introduttivo, e che ci portano di fatto nel cuore delle vicende, dei fatti, dei grandi eventi della storia che in realtà esprimono un moto sotterraneo che poi emerge in qualche maniera nel caso delle stragi di Fagra nello spazio pubblico, portando e determinando una modifica dell'elemento oggettivo del quadro politico di riferimento e dell'elemento soggettivo in riferimento alle reazioni che queste vicende provocano nella misura della sfera pubblica. La strage di Portella della Ginestra è effettivamente un punto di raccordo che connette, pone in relazione dialettica un presente ed un passato che sono vicinissimi, anche se il quadro storico-politico di riferimento è radicalmente mutato. Quando il primo maggio del 1947 sulla piana di Portella della Ginestra, sulla piana degli Albanesi, viene compiuto la prima strage cosiddetta di Stato, cioè una strage che coinvolge civili, non viene rivendicata, quindi si configura come un'operazione paramilitare ormai in tempo di pace, non rivendicata, e che mira funzionalmente alla modifica del quadro politico esistente in quel momento. Ecco, il primo maggio del 1947 quell'evento sembra essere il frutto, il prodotto dei mesi precedenti alla vicenda di Portella della Ginestra, ma in realtà è strettamente, direttamente, umanamente connesso alla vicenda delle guerre fasciste. Il questore di Lubiana, Ettore Messana, durante l'occupazione della Jugoslavia da parte fascista, avvenuta il 6 aprile del 1941, quindi quest'anno ricorrerà l'80° anniversario dell'aggressione fascista italiana alla Jugoslavia, ecco, il questore di Lubiana, della Lubiana fascista voluta dal regime di Mussolini, si chiamava appunto Messana ed aveva preso servizio e attività nei territori occupati, guidando le misure di ordine pubblico durante la distruzione geopolitica, militare, economica della Jugoslavia tra il 1941 e il 1943. Aveva coordinato operazioni di ordine pubblico direttamente connesse con i crimini di guerra compiuti dal Regio Esercito e dai battaglioni M, dai battaglioni Mussolini, dalle Camicie Nere nei Balcani. Crimini di guerra che si configurarono alla fine del conflitto, vennero configurati alle Nazioni Unite con una serie di campionature che inquadravano ed includevano gli stupri di massa, le devastazioni dei villaggi, le fucilazioni, le cosiddette rappresaglie, le torture, le deportazioni di decine di migliaia di persone, di donne e uomini. Pensiamo soltanto che a Lubiana, la città in cui Ettore Messana era questore, verranno a mancare ad un censimento post bellico 36.000 abitanti di una città che ne costava all'inizio della guerra 360.000. Significa che viene a mancare il 10% della popolazione civile morta per mano fascista e nazista, e buona parte delle responsabilità, la maggior parte delle responsabilità delle misure di ordine pubblico cui viene sottoposta la popolazione civile jugoslava, e in particolare di Lubiana, dell'attuale capitale della Slovenia, è per mano italiana. Il responsabile dell'ordine pubblico, Ettore Messana, alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene iscritto nelle liste dei criminali di guerra italiani che dovranno essere processati da un tribunale penale internazionale oppure estradati in Jugoslavia per rispondere di queste condotte draconiane compiute ai danni della popolazione civile e dei partigiani jugoslavi. Ettore Messana, così come quasi 2000 criminali di guerra italiani iscritti in quella lista dalle Nazioni Unite, non sarà mai portato a processo, non risponderà mai delle sue condotte né dei suoi crimini, ed anzi, alla fine del conflitto rientrerà al Ministero dell'Interno a Roma e verrà spedito come capo dell'ordine pubblico, come capo dell'ispettorato di pubblica sicurezza proprio in Sicilia. Verrà spedito lì da Mario Scelba, l'allora ministro dell'Interno, che delegherà a lui, ad Ettore Messana, il compito di reprimere le forme di banditismo, così si chiamava all'epoca, veniva definita all'epoca la criminalità organizzata, quella che noi chiamiamo oggi Cosa Nostra, la mafia. Ecco, Ettore Messana, l'ex questore di Lubiana, viene inviato impunito in Sicilia per gestire l'ordine pubblico, ma a differenza di quello che è il suo mandato istituzionale formale, immediatamente prende contatto con il bandito Salvatore Giuliano e i suoi briganti, entra in rapporto con questa banda, fornisce loro copertura politica, documenti, armi, denari, e la banda Giuliano diventa un fattore incidente sul piano dell'ordine pubblico in chiave antisocialista ed anticomunista. Marco lo ricordava nel suo intervento iniziale, Portella della Ginestra è l'ultimo gravissimo, il più grave episodio di una catena costellata di interventi assassini nei confronti di esponenti delle camere del lavoro, di sindacalisti, di militanti socialisti, comunisti, azionisti, che, lo ricordiamo, nel 1946-47 rappresentano la maggioranza in termini di voti della Sicilia. Le elezioni amministrative che hanno preceduto la strage di Portella della Ginestra hanno visto nella Sicilia del post bellica l'affermazione del cosiddetto blocco del popolo, ovvero di una coalizione elettorale che comprende tutte le forze della sinistra, il Partito d'Azione, il Partito Socialista, il Partito Comunista, che diventano maggioranza nell'isola. È un campanello d'allarme molto significativo, perché di lì a poco dovranno essere celebrate le elezioni nazionali, che verranno infatti tenute il 18 aprile del 1948, l'anno dopo. È un passaggio, quello delle elezioni amministrative, che segna un momento di rottura e che vede quindi l'incremento sul piano dell'ordine pubblico degli attentati paramilitari contro le sinistre nell'isola. Ettore Messana non riesce assolutamente, perché non c'è la volontà politica di fermare queste azioni, ed anzi i suoi rapporti ambigui con la criminalità organizzata, col bandito Giuliano, saranno la ragione per cui all'indomani della strage di Portella della Ginestra lo stesso Mario Scelba, che lo aveva inviato in Sicilia, dovrà sollevarlo dall'incarico e farlo rientrare a Roma. Le responsabilità di Ettore Messana nella gestione dell'ordine pubblico che precede e succede alla strage di Portella della Ginestra emergeranno in tutto il loro clamore nel 1952 presso la Corte di Appello di Viterbo, quando si svolgerà il processo per la strage di Portella della Ginestra, e la stessa Corte di Viterbo indicherà Ettore Messana come responsabile della costruzione di rapporti indicibili, di rapporti extra legali, extra legge, con il bandito Giuliano e con naturalmente tutti i gruppi criminali che operano sull'isola. La peculiarità di questa vicenda, che è davvero assai particolare, è che nel momento in cui viene sollevato l'ex questore di Lubiana, criminale di guerra, dal suo incarico di capo dell'ispettorato di pubblica sicurezza in Sicilia, questo viene sostituito da colui che lo aveva sostituito presso la questura di Lubiana durante l'occupazione fascista della Slovenia. Si chiamava Ciro Verdiani, era stato il capo stazione dell'ovra della polizia politica fascista a Spalato e poi aveva sostituito Ettore Messana nel compito di dirigere la questura a Lubiana. Anche lui avrebbe dovuto rispondere di crimini di guerra, anche lui tornerà immune ed impunito a ricoprire cariche istituzionali a Roma, tanto che nella capitale nel 1946 verrà nominato questore della città, della capitale. Da lì, dalla posizione di questore di Roma, verrà poi trasferito, in seguito alla rimozione di Ettore Messana, seguita alla strage di Portella della Ginestra, e trasferito in Sicilia al posto dell'ex questore di Lubiana, che lui stesso aveva sostituito alla guida dell'attuale capitale della Slovenia. Ebbene, Ciro Verdiani sarà anch'esso, anche lui, portato a processo presso la Corte di Appello di Viterbo proprio per le sue incredibili connessioni, i suoi indicibili rapporti con Gaspare Pisciotta, col bandito Giuliano, con la criminalità organizzata dell'isola. Arriverà Ciro Verdiani ad ospitare nella sua casa il bandito Giuliano, a portarlo dal suo medico di fiducia per curarlo, a fornire a lui e alla sua banda armi e soldi, documenti falsi, e passerà addirittura con il bandito Giuliano la sera di Natale in uno degli hotel più lussuosi di Palermo dell'epoca, nel 1948. Tutti questi elementi che emergono presso al processo per Portella della Ginestra, presso la Corte d'Appello di Viterbo, indicano dunque una forma di continuità tra un modus operandi dello Stato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quindi durante il regime fascista, ed una continuità di uomini, metodi, linee politiche di indirizzo, anche successive non solo alla fine della guerra, ma alla nascita della Repubblica, ovvero in quell'arco temporale che, diciamo, indichiamo con il vocabolo della cosiddetta transizione dal fascismo alla Repubblica, che è segnato da questi elementi che al fondo della società determinano un'inversione significativa dell'indirizzo politico-sociale che assume il paese nei mesi immediatamente successivi alla fine del conflitto. Lo ricordiamo, le elezioni amministrative in Sicilia prima della strage di Portella della Ginestra registrano un'affermazione molto rilevante e netta del blocco del popolo. Dopo la strage di Portella della Ginestra, appena un anno dopo, meno di un anno dopo, la stessa Sicilia diventerà un serbatoio elettorale e di consenso enorme ai partiti conservatori e in particolare al partito conservatore che guida lo schieramento anticomunista e antisocialista nelle elezioni del 18 aprile del 1948, ovvero la Democrazia Cristiana, il partito di Mario Scelba. Bene, passerei la parola al collettivo ZAM per le domande. Ringraziamo Davide Conti per il suo tempo, che dato il libro che abbiamo avuto modo di leggere e soprattutto la quantità di note ci fa capire che il suo tempo è abbastanza prezioso, quindi lo ringraziamo di poterci dedicare una serata. Io volevo fare la prima domanda riguardo alla questione siciliana, esattamente quello di cui abbiamo un po' parlato già, però mettere l'accento su l'importanza che rivestiva nel Mediterraneo e nella geopolitica, nello scacchiere internazionale che si andava definendo, che già prima della guerra e che poi si andava definendo dopo, l'importanza dell'isola della Sicilia in particolare. perché immagino che se viene chiamata appunto questione siciliana non ricalcasse perfettamente i contorni di una questione meridionale e basta, ma ci fosse anche qualcosa di più, e la sua posizione geografica mi suggerisce che probabilmente c'è qualcosa da quel punto di vista. Oltre a ciò, volevo capire come mai c'era questo interesse così particolare da parte degli alleati nei confronti dello schedario dell'Ovra, che appunto Ciro Verdiani, poi il personaggio che mi è sembrato il più camaleontico tra tutti i protagonisti del tuo libro, perché ci sono quelli che hanno osteggiato su tutta la linea la nascente Repubblica perché volevano restaurare la monarchia, questo più i generali, gli ispettori comunque sono stati un po' più duri sulle loro posizioni, mentre Verdiani giocava a essere sia antifascista che invece a restare il fascista che era. E quindi subito dopo la fine della guerra nel 45, quando gli hanno chiesto gli archivi dell'Ovra, lui li ha subito passati agli alleati. E volevo capire perché addirittura così tanto l'interesse degli alleati era così particolare, insomma. No, sono due domande molto molto importanti, pongono delle questioni molto importanti. Partirei dalla prima, appunto, la vicenda siciliana, perché qui diciamo indichiamo come questione siciliana, in termini politici direi gramsciani del termine questione, quello sviluppo politico. Innanzitutto perché la Sicilia è un fronte primario della guerra mondiale in Europa. La Sicilia è l'isola dove sbarcano gli alleati, e lo sbarco degli alleati, l'operazione Aschi, è una operazione lungamente preparata dagli alleati, sia in termini militari ma soprattutto in termini politico-sociali. Vengono attivati dei contatti con le famiglie mafiose residenti negli Stati Uniti, in particolare con Lucky Luciano, che dispongono sul territorio di due elementi fondamentali per gli alleati in ordine al programmato sbarco in Sicilia. Da un lato possono significare una operazione senza combattimento militare sull'isola, senza resistenza militare alle truppe alleate, grazie al controllo del territorio da parte delle famiglie mafiose. In secondo ordine, perché proprio il loro radicamento sul territorio consente il mantenimento dell'ordine pubblico. Se noi andiamo a confrontare tutti gli incarichi di primi cittadini, di prefetti, all'epoca non si chiamavano sindaci, che vengono nominati dalle autorità alleate subito dopo lo sbarco in Sicilia, ci renderemo conto che fanno in larghissima parte, quasi tutti, parte di famiglie connesse con la criminalità mafiosa. E sono l'espressione di un accordo organico stipulato con le famiglie italo-statunitensi mafiose. E dunque diventa questione siciliana la vicenda di un'isola che rappresenta lo sbarco e quindi l'inizio della caduta del primo anello della catena dell'asse, l'anello debole, l'Italia, ed è una questione politico-sociale perché appena ad un anno e mezzo dalla fine del conflitto, quel luogo, quell'area così strategicamente rilevante nel cuore del Mediterraneo e nella vicenda stessa della campagna d'Italia per gli alleati, improvvisamente diventa un fulcro, un nucleo da cui si diramano centinaia di piccole e grandi battaglie e lotte sociali: l'occupazione delle terre, la richiesta della riforma agraria, la lotta contro il latifondo, e dunque l'allargamento enorme in un tempo rapidissimo delle forme di aggregazione di massa, in particolare delle camere del lavoro, del sindacato e dei partiti della sinistra. È un passaggio quasi scioccante per chi ha guardato e ha visto la Sicilia come un punto di appoggio per la costruzione di un piano egemonico che poi interesserà tutta l'Europa occidentale. E dunque questo rivolgimento politico-sociale in un tempo così breve rispetto a luglio del 1943, che porta le sinistre a vincere le elezioni politiche democratiche nell'isola e quindi a modificare in termini di rapporti di forza le relazioni sull'isola, possono rappresentare da un lato un esempio per il resto d'Italia, non solo sul piano elettorale, ma sul piano della mobilitazione per la rivendicazione di alcuni diritti, come appunto lo scioglimento del nodo della questione agraria, che non interessa soltanto il Sud Italia, ma anche le parti del centro-nord del paese, e contemporaneamente la questione meridionale, già indicata da Gramsci come vero nodo storico della linea di sviluppo del nostro paese. E dunque è anche in ragione di queste motivazioni che la scelta del personale che deve gestire quell'ordine pubblico è una scelta davvero così ardita da parte del ministro dell'Interno, Mario Scelba, che è siciliano e quindi conosce benissimo la realtà e il respiro che le cose siciliane possono avere rispetto al quadro nazionale complessivo. E di nuovo, la scelta di Ettore Messana prima e di Ciro Verdiani poi dimostra una volontà politica non solo legata alla dimensione dell'ordine pubblico, ma specificatamente, precipuamente politica, di gestire l'ordine pubblico come elemento di stabilizzazione dell'ordine politico. Ciro Verdiani, e vengo alla seconda parte della tua domanda, era stato capostazione dell'Ovra a Spalato, era stato quindi un esponente dell'intelligence politica fascista di primissimo piano. Non solo, era stato questore di Lubiana e più in generale aveva rappresentato in termini di capacità operative uno dei punti d'avanguardia della politica di repressione sviluppata dal fascismo e in Jugoslavia e nel nostro territorio italiano. Ciro Verdiani diventa il custode di segreti inconfessabili, diventa il gestore dell'archivio dell'Ovra, che è conservato a Valdarno, a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lì, su mandato del capo dell'Ovra, Guido Leto, prende disposizioni per la custodia, la protezione, il mantenimento di quell'archivio così prezioso. È un archivio prezioso di carte perché la polizia politica in 20 anni ha schedato sostanzialmente tutta intera la classe dirigente fascista e la classe dirigente del paese. E l'ha schedata non solo in termini di comportamenti e costume politico, ma soprattutto di comportamenti e costume personale. E dunque ha accumulato una enorme mole di materiale ricattatorio che può favorire o distruggere carriere politiche, carriere economiche, carriere culturali. È un'enorme mole di informazioni che, gestite da un centro unico, può determinare la condotta, l'ascesa o la caduta di interi pezzi della classe dirigente italiana. Ciro Verdiani ne è assolutamente consapevole ed è a lui che si rivolge un giovanissimo vice commissario di polizia che aveva già lavorato per gli alleati a Roma durante l'occupazione nazista della città e che viene paracadutato, catapultato nel Veneto alla ricerca di un contatto proprio con Ciro Verdiani su mandato del responsabile dell'OSS, dell'Office Strategic Service dell'antesignano della CIA, James Jesus Angleton, l'uomo che per capirci, salverà Junio Valerio Borghese dalla fucilazione quando rischierà di essere catturato dai partigiani e processato con una sicura condanna a morte comminata dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. Ecco, James Jesus Angleton invia un giovanissimo vice commissario di polizia romano che poi conosceremo benissimo per tantissimi anni nel nostro paese. Si chiamava Federico Umberto D'Amato. Era appena 25enne e sarebbe stato il futuro capo dell'ufficio affari riservati al Ministero dell'Interno, coinvolto in tutte le vicende legate alle stragi e ai tentativi di colpo di Stato che sono emersi nel corso dell'Italia degli anni 60 e 70. Federico Umberto D'Amato prende contatto con Ciro Verdiani, stabilisce con lui un accordo, riesce con questo accordo, in questo accordo, a far rientrare anche Guido Leto, che era capo dell'ovra, quindi responsabile primo di quell'archivio, e grazie a questo accordo con Ciro Verdiani e con Guido Leto, Federico Umberto D'Amato riesce a portare in dote agli alleati l'intera misura informativa conservata in quell'archivio. È un archivio che garantisce anche la carriera e la sopravvivenza politica dei funzionari che lo gestiscono. E Ciro Verdiani ne è diretta espressione. Da lì, da quell'archivio, Ciro Verdiani sottrae e copia il fascicolo relativo a un grande padre della patria, a uno dei fondatori della Repubblica, uno dei leader di un grande partito di massa della sinistra. E con quella copia del fascicolo si presenta da Romita, che era all'epoca ministro dell'interno socialista, e chiede la tessera del partito. Lui, criminale di guerra fascista, persecutore come capo dell'ovra, come capo stazione dell'ovra degli antifascisti, lui chiede la tessera del Partito Socialista Italiano, che in ragione della potenzialità del ricatto che quel fascicolo, in particolare un fascicolo su Pietro Nenni, può esercitare, ottiene la tessera del Partito Socialista e con essa la nomina a questore della capitale, a questore di Roma. È questa leva di ricatto che fa di questi personaggi degli intoccabili e che di fatto determina una aporia nella transizione nazionale italiana dal fascismo alla democrazia. Consente a loro di proseguire le loro carriere e consente naturalmente, in base a questo patto indicibile, alla classe dirigente politica di utilizzarli sulla base di un reciproco ricatto, perché lo abbiamo detto all'inizio, Ciro Verdiani, Ettore Messana e tantissimi altri presunti criminali di guerra, dobbiamo usare questa aggettivazione, perché ad oggi, non essendo stato celebrato neanche un processo, dobbiamo ragionare con la presunzione di innocenza per queste persone, per queste figure. Ecco, questi criminali di guerra rappresentano dal punto di vista della classe dirigente politica che li gestisce una garanzia di fedeltà. Sulla loro testa pende la possibilità di essere arrestati e processati per i crimini di guerra che hanno compiuto, estradati nei paesi dove hanno ucciso e deportato la popolazione civile. Jugoslavia, Grecia, Albania, Unione Sovietica, Francia. E dunque questo rischio ne fa del personale fedele alla classe politica che li comanda, fedele alla classe politica che ne determina l'indirizzo, la condotta, le scelte. E dunque personaggi come Verdiani ci significano la difformità del processo di transizione del nostro paese dal fascismo alla democrazia, la difformità in termini costituzionali, in termini di processo storico evolutivo, sistema democratico, e contestualmente ci aprono una finestra su una pratica quella del dossieraggio, della schedatura di massa, del ricatto politico, che in realtà non morirà con i loro principali interpreti del dopoguerra, ma verrà mantenuta in essere come pratica, come costume, anche nel corso dei decenni successivi, fino ai giorni nostri. Bene, c'è una domanda di Maurizio Pratesi dell'Ampi 25 aprile. Ciao a tutti, l'amnistia Togliatti, dopo la svolta di Salerno, ha rappresentato l'inizio di compromessi col sistema che si riverberano fino ai giorni nostri, punto di domanda. Tu la vedi, Davide? Sì, la vedo, la leggo. Io penso questo, l'amnistia Togliatti è un passaggio molto delicato della storia del paese ed è un passaggio tutto politico, giocato tutto sul piano politico, sia dal segretario generale del Partito Comunista che dal segretario della Democrazia Cristiana e all'epoca dell'amnistia capo del governo Alcide De Gasperi. Per queste ragioni, diciamo così. Innanzitutto l'amnistia Togliatti non interviene sulla questione dei criminali di guerra, sui crimini compiuti dal Regio Esercito e dalle Camicie Nere all'estero. È un'amnistia che interviene sui crimini compiuti in Italia. Quindi, per capirci, non interviene sulle condotte dei Ciro Verdiani, degli Ettore Messana, dei Giuseppe Piesch, dei Mario Roatta, che si sono resi responsabili di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità durante il conflitto 40-45. L'amnistia Togliatti viene varata in un momento storico molto particolare. Qui, diciamo, chiedo attenzioni sulle date, che sono davvero fondamentali per la storia del nostro paese. In un momento in cui la transizione si sviluppa con spinte progressive e istanze regressive, come abbiamo visto, l'amnistia si colloca esattamente sul crinale che porta alla scelta di modifica dell'assetto istituzionale del nostro paese, alla scelta cioè se trasformare l'Italia in repubblica o mantenerla monarchia. Inizia un conflitto durissimo, tutto politico, tra Casa Savoia e il governo antifascista guidato dai tre partiti di massa: Partito Socialista, Partito Comunista e Democrazia Cristiana. E per quale ragione? Per una ragione semplicissima. Fino al 2 giugno del 1946 l'Italia è un regno. E quindi, in un regno, l'amnistia viene promulgata dal capo dello Stato, che è il re. E dunque Casa Savoia preme, spinge per essere lei stessa la promotrice di un provvedimento di amnistia nei confronti del popolo italiano, che tutti sanno essere stato molto vicino in termini di consenso al fascismo, almeno fino all'ingresso in guerra del giugno del 1940. Ecco, il ragionamento tutto politico intorno all'amnistia si snoda attorno a questa questione. I Savoia vogliono promulgare un'amnistia firmata da loro prima del referendum, nella convinzione che un'amnistia da loro firmata e promulgata per gli italiani che sono stati fascisti, un provvedimento di assoluzione per i loro crimini compiuti durante il regime, si tradurrà poi, qualche settimana dopo, il 2 giugno del 1946, in un'amnistia, stavolta passante per il voto democratico, in un'amnistia che manterrà al potere, alla guida dello Stato, alla guida della nazione, i Savoia, responsabili della nascita, dell'avvento del fascismo e di tutte, non solo della Seconda Guerra Mondiale, ma di tutte le imprese bellico-militari condotte dal regime nel corso del ventennio. E questo è il ragionamento politico che muove il conflitto tra la monarchia e il governo antifascista, che dal canto suo invece propone di promulgare un'amnistia dopo il referendum istituzionale. Se noi guardiamo le date, ci rendiamo conto che il 2 giugno del 1946 si celebrano le elezioni per l'Assemblea Costituente e le votazioni sul referendum, sul referendum Monarchia Repubblica, e il 22 giugno, 20 giorni dopo, viene promulgata l'amnistia Togliatti De Gasperi. È la conclusione di un conflitto durissimo che il governo antifascista ha vinto semplicemente perché ha trovato l'appoggio quasi insperato del governo degli Stati Uniti, che inizialmente è, diciamo, nell'ambito degli angloamericani, quello più incline ad una epurazione, ad una, come dire, ad un rinnovamento all'interno delle istituzioni italiane. Successivamente, nei mesi immediatamente successivi, questa posizione di Washington si modificherà e si accomoderà ad una linea di indirizzo più vicina a quella della Gran Bretagna, che voleva una continuità organica degli apparati amministrativi e degli apparati di forza italiani, in vista della costruzione di un'altra alleanza militare internazionale, di un altro dispositivo militare internazionale, che noi avremmo poi imparato a conoscere col nome di NATO, di Alleanza Atlantica, negli anni successivi. Ecco, dentro questo conflitto tra la monarchia, che vuole l'amnistia prima del referendum, e i partiti antifascisti, che vogliono promulgarla dopo, sta tutto il dramma, la difficoltà della transizione italiana. Diciamocelo, alla fine di una guerra civile, un provvedimento di amnistia è un passaggio doloroso ma indispensabile. È stata fatta in Francia, ad esempio, in riferimento all'esperienza del collaborazionismo di Vichy. Certo, lì, in quel paese, l'amnistia non è stata applicata in un tempo così vicino alla fine della guerra. Ha ragione in questo Maurizio Pratesi a sottolinearne l'anomalia. La prima amnistia in Francia viene promulgata nel 1952, non nel 1946. Ed è un'amnistia che comunque interessa una piccola frazione, un piccolo segmento di collaborazionismo nazionale francese, che per il resto, come paese, come nazione, ha combattuto la guerra contro la Germania hitleriana. L'amnistia Togliatti De Gasperi invece interviene in un paese che non solo ha combattuto la guerra al fianco del Terzo Reich, ma è il paese laboratorio della storia da cui è nato il fascismo, cioè il movimento che ha ispirato il Terzo Reich hitleriano e tutti i regimi che poi si sono in qualche maniera rivolti, ispirati alla dittatura mussoliniana instaurata il 28 con la marcia, la cosiddetta marcia su Roma del 28 ottobre del 1922. E dunque l'amnistia Togliatti, da un lato, arriva troppo presto, dall'altro fa i conti con una misura di realpolitik che consente, attraverso quell'amnistia, di spostare una parte dei voti, del consenso degli italiani verso l'opzione repubblicana anziché quella monarchica, determinando una rottura con il passato, chiudendo i conti con la monarchia attraverso un voto popolare che non lascia margini alla monarchia per rimanere alla guida del paese. Dall'altro, però, questa scelta, questa vittoria viene pagata a carissimo prezzo, perché l'amnistia Togliatti naturalmente determina una larghissima, vastissima impunità per i criminali fascisti. Pensiamo che al 1952, quando appunto in Francia viene promulgata l'amnistia, nel nostro paese i fascisti in carcere sono 252, di numero, 252, mentre invece sono decine di migliaia i partigiani che sono messi sotto processo per fatti relativi alla guerra di liberazione nazionale. Sono stati cioè incriminati dalla magistratura non epurata e dunque fascista per i combattimenti, la condotta e le operazioni belliche sviluppate dentro la guerra di liberazione nazionale del 1943-1945. È questa piramide rovesciata che esprime con un'immagine semantica più di ogni altra parola la difficoltà di frapporre una rottura effettiva tra il passato fascista e la nuova Italia antifascista. E dunque l'amnistia Togliatti in questo senso rappresenta un po' un giano bifronte. Da un lato viene utilizzata per conseguire un grande risultato storico, l'Italia che diventa repubblicana con voto popolare, ma dall'altra porta a pagare un prezzo molto alto allo stesso paese e in particolare a una parte, a una larga parte della popolazione civile, dei partigiani, dei combattenti, degli antifascisti che trovano nell'impunità per i criminali in camicia nera e dall'altra parte nell'incriminazione addirittura per le loro condotte durante la resistenza uno sbocco, un approdo inatteso della transizione dal fascismo alla democrazia. Allora, non mi sembra ci siano altre domande. Io volevo chiamarti in causa per la figura forse più complessa e più rappresentativa di questa mancata Norimberga, di questa mancata epurazione che, collegandomi al tuo ultimo discorso, sembra quasi un'epurazione invece riuscita nei confronti di molti partigiani. Sì. Allora, la figura di Mario Roatta, che è una figura veramente complessa, e c'è un passaggio sul quale vorrei che tutti soffermarsi nel descrivere questo personaggio. A un certo punto tu parli della Marina Militare Alleata, mi sembra che salva 18 esponenti della decima MAS e del gruppo Gamma. Come è stato possibile questo all'interno del discorso su Roatta? Diciamo questo, che la guerra calda aveva composto dal punto di vista geopolitico due schieramenti. Da un lato quello che il più grande storico del Novecento, Eric Hobsbawm, ha definito l'alleanza che guardava storicamente al Medioevo, alla barbarie, l'asse, quindi la Germania nazista, l'Italia fascista, il Giappone imperiale, e dall'altro un fronte eterogeneo per sistemi economici, sistemi politici, storia, quello degli alleati, che comprende gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, la Francia, la Gran Bretagna. Ecco, la guerra calda aveva disposto questo quadro bipolare geopolitico. Ma in prossimità, già in prossimità della fine della guerra calda, in nuce emergono gli elementi, i fattori, le componenti che destruttureranno questo quadro nell'ambito della cosiddetta guerra fredda, che trasforma contestualmente gli alleati della guerra combattuta con i cannoni, con le armi, la guerra calda appunto, in nemici della guerra fredda, e i nemici della guerra calda in nuovi alleati nel contesto bipolare che divide il mondo tra alleanza atlantica, tra blocco occidentale e patto di Varsavia, blocco orientale a guida sovietica. E dunque la frattura internazionale che rompe l'alleanza antifascista si riflette immediatamente sul paese che prima di tutti e più di tutti ha portato il suo contributo, prima all'innesco del meccanismo della Seconda Guerra Mondiale, con l'avvento del fascismo, e poi col crollo del fascismo, col collasso dello Stato monarchico dell'8 settembre del 43, ha determinato l'inizio dello sgretolamento dell'alleanza dell'asse. L'Italia dunque è un paese che assorbe un numero di contraddizioni che ne fanno sicuramente una nazione, uno Stato molto particolare, peculiare, dal punto di vista storico. L'Italia è il paese dove è nato il fascismo, è iniziato, grazie al quale sono iniziate una serie di guerre coloniali prima e poi la guerra mondiale in ultimo. È il paese in cui il fascismo ha avuto un largo consenso, dove gli antifascisti sono stati minoranza, con attorno un silenzio del paese, diremo assordante, per usare una formula, diciamo, molto in uso. E allo stesso tempo è il paese dove c'è stato un forte movimento di resistenza armata al fascismo, in larga parte, per quasi il 50%, strutturato attorno alle Brigate Garibaldi a guida comunista, ed è un paese che è collocato esattamente sul crinale, sulla linea di confine che separa l'est sovietico dall'ovest atlantico. Di più, anche dal nord del mondo rispetto al sud del mondo, perché il nostro, come sappiamo, è una piattaforma di terra, una lingua di terra stesa sul Mediterraneo. E dunque questa serie di peculiarità storiche, politiche, geografiche fanno del nostro paese davvero un laboratorio pieno di contraddizioni, di elementi conflittuali. C'è in Italia anche il più forte partito comunista d'Occidente e al suo interno il PCI insieme ai socialisti contribuisce in modo decisivo alla stesura della carta costituzionale, cioè della strutturazione del nuovo Stato democratico che sarà. Ed è l'Italia l'unico paese d'Europa in cui il Partito Comunista prende parte ai lavori costituenti e scrive materialmente la Costituzione. Tutte queste forme, questi fattori, complementari ma contraddittori, determinano nel nostro paese queste misure di transizione. Gli alleati, ancor prima che finisca la guerra fredda, ancor prima che finisca la guerra calda, già pensano alla guerra fredda e dunque sanno perfettamente che l'Italia farà capo all'Alleanza Atlantica, alla nascitura NATO, ed inoltre sanno che la guerra fredda, a differenza delle guerre precedenti, sarà una guerra politica, ovvero ai soldati non verrà chiesto soltanto di eseguire gli ordini militari, ma verrà chiesta una abnegazione ed una preparazione ideologica di carattere anticomunista, perché il confronto e il conflitto stavolta sarà esplicitamente politico e rivolto verso Mosca e i suoi alleati. E quale personale politicamente formato all'anticomunismo migliore degli ex fascisti poteva fare al caso degli anglo-americani? È in questo quadro ed è in questa logica che vengono riciclati gli uomini della decima Hamas, che vengono riciclati i criminali di guerra, che viene determinato quel processo di continuità dello Stato che interverrà anche sulla misura costituzionale del nostro paese. Fino al 1956, lo sappiamo, molti istituti previsti dalla Costituzione che oggi ci sembrano assolutamente scontati non prendono vita, non vengono attivati. Fino al 1956 il congelamento costituzionale determina la mancata entrata in funzione della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura. Fino al 1970 non esisteranno le regioni. Fino al 1981 non verrà riformato lo Statuto di Famiglia. In quell'anno finalmente verrà abolito il delitto d'onore, viva Dio, ma dovremo aspettare gli anni Ottanta. Dovremo aspettare per l'introduzione del reato di tortura il 2015 nel nostro paese, cosa che permetterà, ad esempio, a tantissimi esponenti della polizia, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, di non finire a processo per tortura in ordine ai fatti del G8 di Genova del 2001. questi elementi di continuità determinano e danno, come dire, danno l'indirizzo della qualità di questa transizione, della difficoltà che l'Italia ha avuto nel fare i conti con la sua storia, e contestualmente offrono anche lo spunto per una lettura dei decenni repubblicani successivi. Questi criminali di guerra, lo abbiamo visto, sono interessati direttamente, appena finito il conflitto, in un evento come la strage di Portella della Ginestra. Ma molti altri, Mario Roatta, Giuseppe Piesch, saranno coinvolti in vicende a noi molto più vicine e molto note: la strage di Piazza Fontana, la costruzione di un servizio segreto clandestino, il cosiddetto anello o noto servizio, la strage di Piazza della Loggia, e tutta una serie di attività eversive che nel corso degli anni 60 e 70 funesteranno il quadro democratico del nostro paese e determineranno quindi una sua qualità involutiva sul piano, appunto, della maturazione democratica. E dunque ragionare dell'impunità per i crimini di guerra italiani alla fine della Seconda Guerra Mondiale non significa soltanto raccontare storie e vicende belliche degli anni 40, significa in realtà cercare di comprendere perché il processo storico-democratico del nostro paese ha avuto un senso anziché un altro senso, ha preso una via anziché un'altra via. No, c'è una domanda che è arrivata in privato da un nostro iscritto, Livio, che posso riassumere così. Conti è anche coautore di un libro che contesta la risoluzione del Parlamento europeo 2019, in cui vengono quasi equiparati fascismo e comunismo. Può chiarire la sua posizione critica? Sì, abbiamo sì pubblicato a più mani, a più voci, un libro che si chiama appunto Nazismo, Comunismo, Antifascismo, in relazione alla risoluzione del Parlamento europeo che il 19 settembre del 2019 ha di fatto equiparato, sotto l'egida del paradigma del cosiddetto totalitarismo, il comunismo come movimento storico ed il nazismo, equiparando quindi sul piano della Seconda Guerra Mondiale aggressori ed aggrediti, occupanti e liberatori, resistenti e nazisti e nazifascisti, in ragione di una misura tutta politica della storia che, esprimendo una dimensione controfattuale, cioè inversa rispetto ai fatti per come si sono svolti nel tempo che andiamo a discutere, rovescia il senso della storia e dunque costruisce con una lettura politica del presente una torsione del tempo passato, modificandone il senso di fondo e dunque la struttura valoriale. Lo abbiamo appena finito di dire: l'antifascismo come movimento internazionale, come movimento mondiale, è formato in larga parte dai comunisti e dai comunismi, aggiungo io, perché naturalmente lo sguardo della risoluzione europea di questa stortura della storia è tutto rivolto al regime sovietico, come se il modello comunista dal punto di vista globale si esaurisse nell'esperienza di Mosca, quando sappiamo che appunto come movimento complessivo e mondiale il comunismo assume una forma plurale in tantissimi stati diversi, in tantissimi continenti diversi. E dunque da questa forzatura nasce in realtà un ragionamento sul tentativo di rovesciare il paradigma antifascista, che è il vero bersaglio di quella risoluzione, prima ancora che la condanna del comunismo come regime totalitario. È il rovesciamento di un paradigma valoriale antifascista che non solo rappresenta la radice storica europea, dell'intero continente, ma che proprio in particolare nel nostro paese ha la sua radice d'origine. Non è un caso che l'idea stessa dell'Unione Europea, dell'unità del continente, dei popoli del continente, nasca scritta nel manifesto di Ventotene nel chiuso del confino fascista nel nostro paese. Non è un caso che Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Altiero Spinelli scrivano il manifesto di Ventotene da reclusi del fascismo. È da lì che nasce l'idea politica dell'Unione Europea, cioè dell'unità dei popoli europei, contro i nazionalismi, contro le divisioni etniche, razziali, contro le discriminazioni di genere e sociali. È una struttura portante che nasce nel buio, nel tugurio del confino fascista e irradia l'intero continente, facendo leva su cosa? Sull'unica effettiva e storicamente reale esperienza collettiva del nostro continente, ovvero la lotta contro il nazifascismo, che si è sviluppata in forme e modi diversi in tutti gli stati dell'Unione Europea, dalla Norvegia all'Italia, dal Belgio all'Olanda, dalla Francia ai paesi dell'Est. In tutti i paesi dell'Europa a 27 di oggi, l'esperienza storica che accomuna un norvegese ad un cecoslovacco, un ungherese ad un italiano, un belga ad un francese, è la resistenza, è l'antifascismo, che è stato vissuto storicamente come paradigma valoriale nel fuoco della guerra. Ecco, la risoluzione europea del Parlamento europeo rinnega questa storia, rinnega una storia collettiva per come essa effettivamente si è esplicitata nel tempo presente, nel tempo passato, ridisponendolo nel presente in un uso pubblico e politico della storia che non solo ne distorce il senso e il significato, ma costruisce impianti cosiddetti valoriali completamente distanti e difformi da quello antifascista, che è alla base dell'idea stessa dell'unità del continente. Dentro questo grumo di contraddizioni abbiamo cercato in quel testo, in quel volume, di sviluppare una critica che non sia distruttiva in termini così nazionalistici dell'esperienza comunitaria dell'Unione, ma sia una critica, un esercizio della critica politica per una rilettura, un'inversione di tendenza nella lettura della storia e nell'interpretazione della cittadinanza europea, che certo non si può ridurre all'esperienza che da Maastricht a oggi si è sviluppata nel corso dei decenni. Bene, ci dovrebbe essere un'altra domanda di Luca, puoi mandarla, Raffaele. Diciamo, la domanda è: l'attentato a Togliatti del 1948 può essere visto nel quadro di questa lotta ai criminali di guerra fascisti? Diciamo, l'attentato a Togliatti è un momento forse decisivo dello sviluppo, soprattutto della legislatura immediatamente successiva alle elezioni dell'aprile del 1948, quando il 14 luglio di quell'anno Togliatti viene colpito da Antonio Pallante, siciliano monarchico che parte dall'isola per uccidere il capo dei comunisti, il segretario generale del partito, il numero 2 del Comintern. Ecco, il clima in Italia è particolarmente acceso. Si è appena conclusa la campagna elettorale del 1948 con le elezioni politiche del 18 aprile. Si è consumata un anno prima la strage di Portella della Ginestra. La violenza politica è un fatto assolutamente strutturale della società. le stesse nuove generazioni dei militanti politici si sono alfabetizzati alla politica, hanno socializzato alla politica attraverso le armi, gli stessi partigiani a 20 anni hanno fatto il loro ingresso nel mondo della politica con le armi in mano. E dunque il quadro in cui questo attentato si compie è un quadro profondamente segnato dall'anticomunismo pubblico e di Stato, e segna un passaggio decisivo perché in qualche maniera definisce la connotazione del decennio successivo. Dopo l'attentato a Togliatti verrà proclamato il più grande sciopero, la più grande mobilitazione, il più grande sciopero generale della storia dell'Italia repubblicana. Ci sarà un moto di popolo che interesserà tutto il paese, in ogni sua più piccola e sparuta provincia. La dirigenza comunista tenderà a riassorbire questo moto, questa istanza ribellistica che muove dal fondo profondo del mondo, non solo legato al PCI, ma anche al sindacato, ai partiti della sinistra, all'ex partigianato in smobilitazione. L'attentato a Togliatti, nello stesso tempo, viene gestito dalla classe dirigente del PCI, cercando di riassorbire queste spinte nella consapevolezza che la repressione successiva, posto che una rivoluzione nel nostro paese non è all'ordine del giorno, rispetto agli accordi internazionali di Teheran e Yalta, che già prima della fine della guerra hanno collocato l'Italia nella sfera di influenza atlantica e quindi a guida statunitense, posto l'impossibilità di una rivoluzione nel nostro paese, quel motto successivo all'attentato a Togliatti, i dirigenti comunisti lo sanno, potrebbe produrre nelle sue estreme conseguenze la messa fuori legge del partito. Nelle sue conseguenze molto dure, ma meno definitive, una repressione generalizzata e del partigianato che riprende le armi nelle ore successive all'attentato a Togliatti, e di tutti quei lavoratori e lavoratrici che muovono verso lo sciopero generale nel paese, che arresta l'intera struttura produttiva dei trasporti, delle infrastrutture italiane. Sono ore molto difficili, molto complicate, e appunto soltanto la capacità di riconnetterle al quadro reale, all'equilibrio reale di forza della classe dirigente comunista consentirà la non messa fuori legge del PCI da un lato, ma non riuscirà ad evitare una repressione in termini giudiziari durissima successiva a quei fatti. È proprio dopo l'attentato a Togliatti che si registra il picco di incriminazioni, arresti, fermi di polizia nei confronti di lavoratrici e lavoratori, ma soprattutto di ex partigiani. E dunque, in questo senso, se l'attentato a Togliatti non rappresenta, come dire, una diretta connessione con la vicenda dei crimini e dei criminali di guerra italiani, senz'altro chiude una fase storica, quella della transizione dal fascismo alla democrazia, della transizione postbellica, e di fatto avvia un processo che sarà segnato dall'egemonia democristiana immediatamente dopo e per lunghi decenni nel nostro paese. Bene, passo a Zan, che mi sembra abbia un'altra domanda. Sì, in realtà ne abbiamo più di una, però a una in parte è stato risposto, quindi io passerei a quella più che si può anche rivolgere nell'attuale. Dunque, intanto volevo farvi partecipi di tre suggestioni che mi sono venute in mente leggendo questo libro e che sono di tre film. Francesco Rosi, Salvatore Giuliano, sicuramente per la prima parte del libro. E Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, il capolavoro di Elio Petri, per quanto riguarda gli ispettori di polizia che si comportano in maniera fascista. Il personaggio del film non è necessariamente un personaggio che arriva dal fascismo, ma che si comporta in quella maniera. C'è anche La tortura del sale, che in questo libro viene citata. E poi un altro film, sempre di Francesco Rosi, più sconosciuto forse, che è Cadaveri eccellenti, su tutta quella serie di golpe che vengono perpetrati, perché neanche io prima di leggere questo libro sapevo che i tentativi sono stati così molteplici di rovesciare il governo democratico. Ma a parte questo, che voleva essere un piccolo inciso e un suggerimento per chi non ha visto questi film di andarli a vedere perché sono favolosi, volevo fare una domanda riguardo alla legge Scelba del 23 giugno del 52 contro la ricostruzione del partito fascista, perché è attuale, perché noi in tutta Italia c'è la proposta di legge del sindaco di Stazzema contro la propaganda fascista, che finisce alla fine di marzo, che invito tutti a firmare per chi non l'ha fatto. E molto spesso questa legge Scelba ogni tanto viene fuori nel dibattito sotto il concetto del fatto che noi le leggi ce le abbiamo, però non vengono applicate, no? Quindi noi abbiamo una legge Scelba contro la ricostruzione del partito fascista, che però non viene applicata. Però in realtà, per il momento in cui questa legge è diventato disegno, è stata approvata, mi sembra un po' ambigua, nel senso che la troviamo schiacciata in un momento dove c'è un altro disegno di legge che si chiama polivalente interno al paese, e c'è un piano anticomunista invece esterno che si chiama The Magnetize. E lo stesso autore, cioè Davide, tu dici che lo stesso Scelba dice che questa legge, che è contro la ricostruzione del partito fascista, comunque potrebbe essere usata anche in funzione anticomunista. Che cosa vuol dire questa cosa? Sono sconcertata dal fatto che la legge contro la ricostruzione del partito fascista possa essere usata da Scelba, poi, che è un personaggio che è praticamente il perno centrale di tutte le mancate epurazioni, coperture, insomma, di quello che abbiamo detto fino adesso. E quando viene messa in discussione la legge Scelba, il disegno di legge Scelba, il vice segretario del Partito Comunista e comandante partigiano più importante del movimento di resistenza, Luigi Longo, immediatamente individua il carattere, appunto, di ambiguità di quella legge. Proprio perché quella del 1952 si configura come una legge contro la ricostituzione del partito fascista, ma di fatto immediatamente non viene applicata, perché se fosse stata conseguente ai suoi dettami, avrebbe dovuto immediatamente essere applicata e portare allo scioglimento del movimento sociale italiano, cosa che invece non avviene. Di più, per l'applicazione anche solo delle disposizioni più tenui per l'apologia di fascismo, per esempio, si fa una grande fatica in termini giuridici e giudiziari nei tribunali a veder applicata questa legge e condannati i fascisti. Contestualmente, invece, è una legge contro gli estremismi, che è il vero punto di riferimento che muove dalla promozione della legge Scelba contro la ricostituzione del partito fascista, e guarda ad un approdo che in un altro paese, molto simile al nostro per storia recente, era stata applicata. Nella Germania di Adenauer, uscita dal nazismo, sia il partito nazista, appunto, sia il partito comunista vengono messi fuori legge, entrambi, Viene fatta dunque una legge contro i partiti delle estreme, così venivano definiti all'epoca, che viene guardata dall'Italia e soprattutto dalla classe dirigente democristiana italiana come ad una possibile soluzione della vicenda, dell'anomalia italiana, come ad una possibile soluzione e a un possibile scioglimento del nodo della questione comunista che si esprime nei nostri confini nazionali. La Democrazia Cristiana tedesca aveva potuto varare quella legge con Adenauer grazie al fatto che il Partito Comunista in Germania era molto debole, non era stato un protagonista assoluto della resistenza, che in Germania non c'era stata, non era stato un protagonista assoluto della costruzione dell'assetto repubblicano, né tantomeno della scrittura della Costituzione. Dunque il cammino è più complesso nel nostro paese, ma la legge Scerba del 1952 guarda in realtà ad un'applicazione estensiva di quelle disposizioni che possano interessare i comportamenti che in qualche maniera siano riconducibili alla nozione di estremismo. Ed è proprio in questo quadro che la diffidenza dei partiti dell'opposizione, sia comunista che socialista, si esprime in Parlamento ed anche nelle direzioni di questi partiti, nelle piazze, quando si rivendica la necessità di sciogliere i gruppi neofascisti risorti immediatamente dopo la fine della guerra, ma appunto si indica l'anomalia di una legge, quella Scelba, che nata formalmente per intervenire su di essi, in realtà rimane lettera morta. Allora, ci sono altre domande? Puoi mandarle, Raffaele? Il confine nord-orientale alla fine della guerra rappresenta il paradigma delle contraddizioni fascismo-antifascismo dell'Italia repubblicana. Cosa ne penso? Penso che sia assolutamente un luogo della politica, del politico, centrale per la ricostruzione corretta e connessa col nostro presente della nostra storia. Il confine italo-jugoslavo rappresenta un punto essenziale almeno per due fattori. Innanzitutto perché abbiamo detto all'inizio di questa conversazione che l'Italia è il laboratorio dove il fascismo nasce nel mondo. Ebbene, nel laboratorio Italia, il laboratorio del confine italo-jugoslavo è esattamente il punto d'inizio di questa vicenda. E a scriverlo, a considerarlo tale, non sono né gli storici né i dirigenti politici antifascisti. È Benito Mussolini che scrive nel 1920 sul Popolo d'Italia queste testuali parole: se in altre plaghe d'Italia il fascismo, il movimento dei fasci di combattimento, è ancora solo una speranza, per lui naturalmente, nella Venezia Giulia è già l'elemento preponderante del contesto politico. Perché? Che cosa è successo? In quelle terre si sviluppa un movimento squadrista come non si è ancora mai visto nel resto del paese, come lo conosceremo soltanto nei mesi e negli anni successivi. Il confine italo-jugoslavo diventa un laboratorio in quanto il fascismo lì riesce a coniugare due elementi, due tratti caratteristici della propria identità. Connette cioè la battaglia nazionalista anti-jugoslava, anti-slava, ad una battaglia sociale anticomunista e antisocialista. Nasce proprio in quelle terre la formula, viene coniato il termine slavo-comunismo come indicazione del nemico interno da battere per l'Italia uscita dalla prima guerra mondiale. Perché slavo comunismo? perché in quelle terre una larga parte, una consistente parte della classe contadina e della classe operaia è composta da una espressione etnica multiculturale, multiforme, multietnica appunto. Nelle stesse catene di montaggio, nelle stesse officine, negli stessi campi, lavorano cittadini jugoslavi e italiani, legati da un rapporto sociale di classe, insieme ai sindacati, alle leghe delle cooperative, ai partiti socialista o comunista. E dunque il fascismo ha buon gioco a costruire un'alleanza sociale altrettanto coesa, composta dai proprietari terrieri, dalle classi proprietarie delle industrie locali e da tutta quella classe militare che staziona in un luogo di confine, proprio perché luogo di contatto con un paese straniero. Il fascismo riesce in quelle terre ad elaborare una particolarissima concezione della lotta politica che fa della violenza paramilitare e squadristica il suo tratto caratteristico. E appunto la riesce ad esprimere in quelle terre e poi a trasmutare nelle altre aree del paese. Ricordiamocelo, è Mussolini che ce lo spiega. È in quelle terre che i fasci di combattimento cominciano a diventare l'elemento preponderante della situazione e del quadro politico di quel passaggio storico così delicato, così importante, che è il primo dopoguerra. E dunque sull'onda di quell'esperienza il confine italo-jugoslavo diventa anche il crocevia attraverso il quale possiamo leggere la nostra esperienza rispetto all'imperialismo fascista, con la guerra d'aggressione del 6 aprile 1941, con la snazionalizzazione, cioè con la sostituzione della popolazione locale jugoslava deportata o uccisa con popolazione italiana in quelle terre, e successivamente con la vicenda delle violenze sul confine orientale subite dall'Italia nel 43 e nel 45, quelle che generalmente vengono indicate con il termine un po', diciamo, riduttivo, semplicistico, delle foibe, e che connette appunto una vicenda complessa che deve tenere gioco forza dal punto di vista storico insieme le politiche del fascismo del primo dopoguerra, la snazionalizzazione di quelle terre per mano italiana, i crimini di guerra compiuti dal Regio Esercito e dalle Camicie Nere durante l'occupazione militare iniziata il 6 aprile del 41, le foibe e l'impunità per i criminali di guerra italiani dopo la fine del secondo conflitto bellico. Tutti questi elementi compongono in quella lingua di terra una parte consistente, importante, dirimente della nostra vicenda storica nazionale, perché ci obbliga il suo studio a fare i conti con ciò che siamo stati. Innanzitutto un paese aggressore e dittatoriale fascista, e in secondo ordine a qual è stato il modo, la modalità con la quale abbiamo fatto i conti con la storia, con la nostra storia nazionale e con la storia internazionale connessa all'esperienza fascista del nostro paese. È un crocevia fondamentale che diventa dunque un punto d'osservazione in grado di comporre una dialettica tra passato e presente, che non è soltanto ricostruzione cronologica degli eventi, ma è costruzione di un orizzonte di senso di quei fatti, che ci spiegano chi siamo, da dove veniamo, ma soprattutto perché la nostra società è diventata un tipo di società anziché un altro tipo di società. Allora c'è una domanda di Marco Cavina. Che ruolo ha avuto la Chiesa nell'ambito della transizione? Sì, sicuramente ha avuto un ruolo decisivo, nel senso che, cerco di essere sintetico, La Chiesa Cattolica naturalmente aveva dato un sostegno, aveva rappresentato un puntello fondamentale per l'assestamento del regime fascista in Italia, soprattutto attraverso la stipula dei patti lateranensi e di una politica concertativa con il regime di Mussolini sul piano educativo, del costume. Pensiamo semplicemente, soltanto per, diciamo, per sottolineare l'aspetto più macroscopico, la questione femminile, la questione di genere, la sincronia, le similitudini tra l'indirizzo culturale e di costume fascista e quello della Chiesa Cattolica negli anni del ventennio del regime. Quindi ha un ruolo fondamentale la Chiesa nel moderare la transizione italiana in chiave anticomunista. La Chiesa fa parte organica dello schieramento anticomunista italiano e internazionale e svolge un ruolo fondamentale in termini di continuità dello Stato, di mancata epurazione, di salvataggio di criminali fascisti e nazisti, che infatti vengono anche fatti emigrare. Pensiamo all'emigrazione organizzata dall'Europa al Sud America, in Argentina, in Brasile, di centinaia, migliaia di ex nazisti e fascisti nell'immediato dopoguerra, con il beneplacito, il sostegno della Chiesa Cattolica, che guarda al comunismo ateo e materialista come il principale degli avversari da combattere, e dunque guarda agli ex fascisti e agli ex nazisti come forza umana utilizzabile in questo scontro. Bene, probabilmente sia Messana che Verdiani avranno conosciuto Monsignor Stepinac, un altro criminale, penso, che diciamo lo è stato beatificato da Carol Wojtyla, o sbaglio? Sì, sì, sì, assolutamente, condannato come criminale di guerra in Jugoslavia e beatificato da Papa Wojtyla nel corso del suo pontificato. Senti, nell'avviarci alla chiusura ti chiedo solo una valutazione che mi sta molto a cuore. Come ti avevo già informato nei nostri scambi saltuari, noi come Ampi siamo stati alla testa di una serie di manifestazioni in tutta Italia e in alcuni quartieri a Milano che hanno ricordato il massacro di Addis Abeba, quella del quale è stato responsabile il generale Graziani, no? Graziani. Ecco, forse siamo stati i primi, forse dico, in 80 anni a ricordarci di questa cosa. Non pensi che il colonialismo anche tra di noi sia un grande rimosso? Sì, sì, assolutamente, ed è un'iniziativa molto importante la vostra, proprio perché colloca dentro lo spazio pubblico e quindi in uno spazio aperto, plurale, che può essere condiviso da una molteplicità di soggetti sociali, umani, politici, una ricostruzione indispensabile. I conti col colonialismo sono un rimosso della Repubblica e sono soprattutto un rimosso dell'approccio degli italiani non solo con loro stessi ma con gli altri popoli. La difficoltà, la fatica che si fa nel raccontare le miserie, le brutture, i crimini del colonialismo italiano, della presenza italiana coloniale in Africa, sono come dire, espressione e rappresentazione di quel mito falso degli italiani brava gente, del buon italiano, che davvero diventa carattere nazionale. Io faccio sempre questo esempio perché mi sembra, diciamo, molto semplice nella sua manifestazione, ma particolarmente significativo nel suo significato profondo. Nel 1994 un film come Mediterraneo, girato da un regista sicuramente democratico come Gabriele Salvatores, racconta la storia di militari italiani del Regio Esercito fascista che sbarcano su un'isola dell'Egeo greco e occupano la Grecia. Ma in quella rappresentazione non sparano un colpo, non sono militari facenti funzioni. Fraternizzano con la popolazione, fanno le partite di calcio, sposano la bella del paese. rappresentano alla perfezione il mito del buon italiano, degli italiani brava gente. Quel film vinse l'Oscar e dimostra come ancora a metà degli anni 90 questo mito fosse così ostico dall'essere scardinato. Facciamo un esempio ancora più specifico sul colonialismo. Il film molto famoso, Il leone del deserto, che racconta la storia, la vicenda di Omar al-Mukhtar, che guidò la resistenza ai colonialisti italiani, è stato censurato, letteralmente censurato per decenni nel nostro paese. Così come un documentario della BBC inglese, Fascist Legacy, che è stato appositamente acquistato dalla Rai TV nel corso degli anni 90 per non essere mai mandato in onda da nessun altro in prima serata nel nostro paese. Cioè la TV pubblica acquistò i diritti di quel documentario proprio per evitare di trasmetterlo. Questo ci dà, come dire, la cifra culturale politica che la lotta e questa guerriglia culturale portate avanti con grande come dire, spirito costruttivo rappresenti nel nostro paese una guerriglia culturale che deve in qualche maniera riuscire ad esprimersi in uno spazio largo. Per questo penso che la vostra iniziativa sia stata particolarmente importante, e esprimersi in uno spazio largo senza aver timore dell'espressione conflittuale che questa rappresentazione, questa narrazione costituisce e compone nel nostro paese, perché soltanto attraverso queste espressioni conflittuali della cultura, la cultura assume la sua funzione reale nella società, che non è soltanto quella accademica, non è soltanto quella formativa, ma diventa soprattutto elemento di crescita del paese e delle giovani generazioni che di quelle vicende sanno poco e appunto meritano invece il rispetto delle generazioni precedenti in ordine alla conoscenza della storia. Grazie Davide per il contributo di tutta la serata e per queste ultime parole in particolare anche. Passo adesso per la chiusura la parola al nostro presidente Michela Fiore, grazie ancora. Sì, beh, anch'io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti a Davide Conti, anche se devo dire ci ha raccontato delle cose che non avremmo mai voluto sentire. D'altronde è anche la conoscenza che ci rende più forti come antifascisti, per cui ben vengano queste serate. Per cui grazie ancora, grazie a Marco Sannella, grazie a Cecilia e al collettivo ZAM, grazie a Raffaele per il supporto tecnico, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci. E come si dice di solito, alla prossima e buona grazie serata. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Vicino al microfono, diciamo nel microfono quando sono le prossime. Ah, allora, le prossime sono state dette all'inizio, ma io già me le sono dimenticate. Diccele, allora, io me ne ricordo. Aspetta, io mi ricordo alla prossima, perché la vedi, prossima... Vedi, la prossima, per esempio, è il 15 aprile. Brava, eh? Brava. 15 aprile, 15 ma non aprile. So su che cos'è. Quindi il 15 aprile noi ragioneremo su il significato dell'antifascismo, che detta così sembra una roba che non ci passerà mai. In realtà sarà Carlo Greppi che ci parlerà del suo libro, che si chiama appunto L'antifascismo non serve più a niente. Ma Carlo Greppi, che è un dritto, sa benissimo che in realtà l'antifascismo serve alla grande. Utilizzi del sarcasmo. Utilizza del sarcasmo, poi è un ragazzo della nostra età e quindi quindi giovanissimo, un ragazzino ci divertiremo adorabile molto. Sono sicura che ci divertiremo e poi moltissimo. A inizio maggio forse aveva e poi detto, a inizio Michela. Maggio, ma non mi ricordo l'autore perché è un nome ma vabbè, molto difficile, comunque, ma sull'antirazzismo già. Esatto, per la storia del capitalismo, che sarà l'ultima lezione. Okay. ci penseremo a giugno, ci penseremo con su. Un mojito fra le mani. Va bene, molto bello. Comunque, sempre grazie a... Possiamo dirlo grazie a Cecilia? Possiamo dire grazie sì, alla Pistadera, grazie diciamo a Solio? Possiamo dire anche... Diciamo grazie a Chiara che sta in console. Ma possiamo dire anche... Esatto, io stacco la spina abbastanza in maniera casuale. Possiamo anche dire a chi volesse di tesserarsi all'Ampi? Assolutamente. Avete perso sarà il primo bomba. Check, però ci saranno altre occasioni in questo arancione scuro. Quindi non temete. Fate o contattate comunque la sezione Ampi Stadera Gratus Olio e la pagina sezione. Su Facebook, evidentemente, e niente, continuate e a sentire. Seguiteci. Fate delle domande durante le serate. Brava, ecco, questa è un'ottima suggestione. Vero? Perché è giusto. Fate delle domande. Bravi. Interrogatevi e interrogate lì, cioè meno noi, più magari gli altri. Vabbè, molto bello, grazie a tutti quanti e niente, adesso stacchiamo il talk, stacchiamo tutta la registrazione, questa cosa sarà breve disponibile anche sulle piattaforme podcast. Quindi, oh yes. Così è perfetto. Ciao ciao. Buonanotte.